pronunciarci al momento, in quanto la giornata è iniziata da poco e chiaramente, non essendo noi un'organizzazione sindacale, non abbiamo neanche diritto ad avere appunto i dati ufficiali dall'azienda. Dal punto di vista della partecipazione, però, il dato vi sembra positivo? Ci sembra piuttosto positivo, tenuto conto anche del fatto che abbiamo scelto questa giornata, una domenica appunto, in quanto simbolica rispetto a quella che è la politica aziendale sulle turnazioni domenicali e festive. Una giornata nella quale non lavora il reparto logistico, un reparto che ha scioperato con adesione al 100% il 6 maggio scorso e sostituito poi da lavoratori di cooperativa. L'azienda assunse ad hoc una squadretta antisciopero per sostituire appunto quanti avevano scioperato 2 mesi fa all'interno del reparto logistico. Quindi diciamo eravamo in parte svantaggiati, partivamo un po' svantaggiati, ma effettivamente la giornata sembra stia andando piuttosto bene. Benissimo. Senti, il pubblico come ha reagito, come si è posto di fronte a questa iniziativa? Ma i clienti che come ogni domenica affollano questo centro commerciale hanno reagito piuttosto bene, la maggior parte si è anche fermata, molti si sono fermati a parlare con noi chiedendoci motivazioni rispetto allo sciopero, chiedendoci notizie sulle condizioni lavorative che ci viviamo quotidianamente e molti hanno anche deciso di entrarsene rinunciando ai loro acquisti in questa giornata e abbiamo ricevuto sicuramente, come dire, una partecipazione anche da parte della clientela alla giornata di mobilitazione, anche perché la cosa non ci stupisce troppo visto che chiaramente la maggior parte di quella che dai vari padroni del settore del commercio viene considerata semplicemente clientela, in realtà dietro la parola clientela si nascondono altri lavoratori e lavoratrici che poi vanno a vivere quotidianamente condizioni di sfruttamento, precarietà o comunque di disagio estremo lavorativo. Insomma, anche i consumatori della domenica hanno un cuore e un cervello, insomma, no? Esattamente, esattamente. Benissimo, senti Valerio, insomma non ti chiediamo come l'azienda sta reagendo perché immagino ancora delle notizie debbano filtrare, certo è insomma che questo problema è un problema ormai annoso per lavoratori e lavoratrici di Leroy Merlin, nel senso che sull'organizzazione dei turni ci si è scontrati già parecchio tempo fa, rimane diciamo un vulnus aperto che chiaramente insomma si tratterà di capire anche lo sciopero di oggi se coglierà nel segno o meno. È chiaro che insomma però questa questione è quella su cui più forse state dando battaglia, no? Sì, la cosa la sentiamo particolarmente visto che ormai la produttività è richiesta a lavoratori per 365 giorni l'anno e in molti posti anche H24, visto che proprio all'interno del nostro settore molte aziende diciamo in realtà non chiudono mai, chiudono al pubblico magari 12 ore al giorno, ma in quelle 12 ore al loro interno chiaramente l'attività è portata avanti, insomma spesso e volentieri si parla di attività logistica, chiaramente di mettere a posto gli scaffali e via dicendo. La questione oltretutto è anche piuttosto sentita perché c'è non solo da noi ma in generale dagli addetti nel settore e per quanto riguarda Leroy Merlin anche all'Ocean, stiamo parlando della stessa azienda di fondo visto che il gruppo Adeo che è proprietario di Leroy Merlin è proprietario anche di Ocean, Brico Center, aziende che operano sempre nel settore del commercio. C'è un accordo integrativo, il Leroy Merlin Italia in particolar modo, che prevede in teoria la gestione concordata del lavoro domenicale e festivo in base alla disponibilità del singolo lavoratore e lavoratrice, un accordo che dal maggio 2009, quando è stato siglato, non è mai stato rispettato, se non negli ultimi mesi, cioè quando abbiamo sollevato fortemente il problema. Nonostante questo, poi di fondo l'azienda continua a mettere in turno persone anche contro le proprie disponibilità lavorative per domeniche e festivi, lo fa appunto in barba a questo accordo che recita non prevede un minimo e un massimo di disponibilità rispetto a queste prestazioni lavorative ma prevede appunto eventualmente un incontro tra le parti, nella fattispecie organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo e l'azienda stessa, per trovare soluzioni più idonee al caso, lì dove le esigenze del singolo lavoratore non coincidano con, cioè le disponibilità del singolo lavoratore non coincidano con le esigenze aziendali. E questo passaggio chiaramente lo hanno bypassato a Chiappari, l'hanno saltato a Chiappari, mettendo appunto in turno in maniera coatta il singolo lavoratore, e questa cosa non ci va giù. Siamo anche piuttosto attenti a quanto si sta discutendo a livello nazionale, insomma tutti e tutti conosciamo l'intesa siglata del 28 giugno scorso da Confederali e Confindustria rispetto alla possibilità di poter, tra le varie porcherie, la possibilità di poter siglare accordi integrativi anche in deroga peggiorativa rispetto a quella che è la trattazione nazionale. E siamo molto attenti perché siamo consapevoli del fatto che se già adesso con un accordo siglato prima di questo 28 giugno, perché l'accordo attualmente in vigore qui da noi è del maggio del 2009, se già con quell'accordo siglato prima del 28 giugno formalmente hanno in qualche modo peggiorato la condizione di lavoratori e lavoratrici, non osiamo immaginare cosa accadrà ora che hanno sostanzialmente carta bianca in merito. Assolutamente sì, tra l'altro c'è da dire che il contratto di settore, quello nazionale insomma, che è stato siglato, mi sembra proprio nel febbraio scorso, è stato un accordo separato. Da questo punto di vista, insomma, quantomeno il sindacato di categoria della CGIL non lo firmò, la Filcam, oggi, proprio diciamo mettendo in discussione le questioni relative alle deroghe sui contratti nazionali che erano comunque contenute in quell'accordo. Oggi insomma ecco, la realtà ha superato a pie pari anche questa, definiamola piccola trincea insomma, sulla quale il sindacato da un certo punto di vista ha forse illuso tantissimi lavoratori e lavoratrici, noi devo dire un po' meno, visto che comunque la china che era stata intrapresa negli ultimi tempi già era quella, era abbastanza evidente, no? Sì, non ci ha stupito affatto che la Camussa insomma abbia posto poi la firma sull'intesa del 28 giugno, nonostante quanto, come hai detto già appunto, al rinnovo del contratto del commercio hanno fatto un'intesa separata, si sono rifiutati di siglare quel rinnovo. Nella pratica comunque è anche un giochetto che già abbiamo visto anche al precedente rinnovo del commercio, 3 anni fa, anzi 2 anni fa, un rinnovo siglato con 2 anni di ritardo. Anche all'epoca, precedente rinnovo, la CGIL fece la parte di chi non accettava compromessi e non ha voluto firmare appunto inizialmente quel rinnovo di contratto di categoria, fermo restando che 6 mesi dopo chiaramente poi ha firmato lo stesso senza porsi più alcun problema. Quindi non sono neanche nuovi a queste pratiche. Quindi diciamo possiamo anche allargarlo, perché simili situazioni si sono verificate anche in molte altre categorie. Ecco, due domande, Valerio. Quindi i tre sindacati, anche la CGIL ha firmato e quindi è perfettamente allineata con gli altri. Su queste iniziative che avete cominciato da mesi lì alla Leroy Merlin, si sono fatti vivi i sindacati? Hanno provato a farsi vivi qualche mese fa, non chiedendoci immediatamente le tessere. La cosa non è stata vista particolarmente bene da lavoratori e lavoratrici, fino ad arrivare poi a una situazione paradossale, perché il 6 maggio scorso formalmente abbiamo aderito appunto allo sciopero generale indetto dalla stessa CGIL, uno sciopero durante il quale l'azienda è andata evidentemente contro quanto previsto dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, sostituendo un'intera squadra in sciopero con lavoratori presi ad hoc da una cooperativa. E quando abbiamo fatto presente questa cosa, la CGIL, che in quanto sindacato che aveva indetto lo sciopero avrebbe anche dovuto far partire la denuncia per la condotta antisindacale, ci è stato risposto che prima avremmo dovuto fare le teste e poi avrebbero visto se eventualmente se si poteva fare qualcosa. E questi diciamo sono stati i rapporti con la CGIL allo stato attuale. In compenso abbiamo notato le problematiche sollevate da noi, le rivendicazioni che stiamo portando avanti sono poi in realtà comuni a tutta la categoria. Abbiamo lasciato rapporti con lavoratori e lavoratrici di IKEA, lavoratori di Ocean, tutti insomma portano avanti le stesse rivendicazioni ed evidenziano appunto gli stessi problemi, cioè un salario sempre più esiguo a vantaggio della politica legata al salario di produttività, quindi un salario variabile, come recita d'altronde il rinnovo del CCNL, nonché anche l'intesa del 28 giugno, insomma, prediligono le parti il ricorso ad accordi integrativi che incentivino il ricorso a premi produzione e a lavoro straordinario. E le turnazioni domenicali, le turnazioni nei giorni festivi, sono tutte quante problematiche che hanno in comune un po' tutti gli addetti della categoria, e lo abbiamo appunto riscontrato nelle relazioni che recentemente abbiamo cominciato a intessere con i lavoratori di cui appunto ho appena parlato. Alcuni sono anche presenti qui oggi, così come noi siamo stati presenti nei giorni scorsi in alcune iniziative per altre situazioni emergenziali sempre all'interno dell'ambito del commercio. E anzi, io cederei anche la parola magari a una lavoratrice di IKEA che è qui con me per fare un intervento rispetto a quanto accade lì da lei. Va benissimo, un'ultima domanda per in modo che chi ci ascolta insomma abbia proprio la sensazione concreta di che cosa stiamo parlando, almeno in una città come Roma. Prima hai citato Leroy Merlin, Shan e altre sigle, insomma, quant'è la consistenza del personale complessivamente di questi raggruppamenti, e magari se c'hai anche il dato che significa a Roma il settore del commercio, insomma, per dare un'idea. Il dato in Italia, il dato è di circa un paio di milioni di addetti nel settore. La questione però è su Roma, non al momento non, dati ufficiali non ne ho sotto mano. Quel che è certo è che come tipologia di lavoro, come categoria, è sicuramente una categoria in forte espansione, nonostante la contrazione dei consumi dovuti a quella tanto chiacchierata crisi. E un settore che è in forte espansione lo vediamo fisicamente espandersi all'interno delle nostre metropoli. Solamente qui a Roma, insomma, ci sono 4-5 mega centri commerciali, dalla Porte di Roma, Roma Euro 2, Roma Est. Ognuno che consistenza c'ha, grosso modo? Tanto per... Qui da noi lavoreranno a occhi e croce fra diretto e indotto 3 o 4 mila persone sicure, solamente qui a Porta di Roma. Ecco, questo, insomma... Parlo di diretto e indotto perché poi la cifra è anche difficilmente calcolabile, visto sì, che sì, certo, varia perché secondo la stagione varie cose. Esattamente. Certo, certo. Poi fra contratti di cooperativa, contratti a termine, certo, contratti certo. A progetto. È una giungla, insomma. Esatto, la giungla contrattuale che ben conosciamo, purtroppo. Va bene, allora se vogliamo proseguire con altri interventi, come dicevi tu. Sì, passo la parola allora a una lavoratrice di IKEA che è qui con me. Buongiorno a tutti, volevo innanzitutto dire che fuori a Leroy Merlin hanno appena messo un cartello che dice che l'azienda si scusa per il disagio poiché alcuni servizi oggi come il ritiro merci e la carta amica non possono essere espletati per mancanza di personale. Questo è sicuramente un sintomo del fatto che scioperare significa esprimere comunque sia il disagio che si manifesta lavorando dentro a questi negozi enormi e che alla fine insomma possono essere bloccati dalla volontà di alcune persone che decidono di esprimere il proprio dissenso rispetto alle condizioni di lavoro che si vivono, che sono poi le stesse insomma per tutti quanti, anche per chi lavora di fronte loro, insomma. Cioè, mi sembra già anche il sintomo di un successo dell'iniziativa, insomma, se l'azienda è stata costretta a riferirsi alla clientela, insomma, no? Sicuramente, poi una giornata come oggi, la gente viene a fare compere e non sa, diciamo, quello che succede all'interno di questi grandi posti. Ecco, ma voi che impressione hai tu, diciamo, non solo di questa iniziativa, ma proprio del tuo nell'ambito del tuo rapporto di lavoro, il pubblico come siete invisibili per il pubblico voi, cioè la gente va lì e vede tutta sta merce, c'ha il cervello completamente fuso dalla quantità di mercanzia e non si rende conto che dietro ci stanno migliaia di persone che stanno al seguito, diciamo, di questo meccanismo. Sì, beh, più o meno va proprio così, diciamo, però è importante, insomma, far capire a tutti coloro che vengono, diciamo, in questi grandi posti quello che succede all'interno, insomma. Certo. Tutti noi siamo vittime di profonde lobotomizzazioni, atte comunque a farci credere che solo il fatto di avere un posto di lavoro a tempo indeterminato sia comunque la più grande fortuna del mondo e non bisogna lasciarsela sfuggire, quando poi in realtà, insomma, vivere di part time non significa certo aver risolto un problema nella vita, ma anzi crearsene un altro sotto un'altra forma di precarietà, perché vivere con 600 euro di stipendio al mese non è possibile a nessuno. Senti, tra donne e uomini com'è la composizione? Più donne, no? Più o meno la stessa, o ci sono differenze? Come siete collocati rispettivamente rispetto ai lavori interni? Ci sono collocazioni, diciamo, diverse? La stragrande maggioranza delle persone lavora a part time 20 ore, e la stragrande maggioranza sono donne, però chi ricopre ruoli, diciamo, di comando è sicuramente in percentuale maggiore un uomo. È maschile, certo. Senti, anche se poi alla fine si tende a non far apparire queste gerarchie come un dato di fatto, ma un fatto naturale, insomma. Allora, per entrare un po' più nello specifico, insomma, tu lavori ad IKEA, dunque è stato da poco siglata un'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, su base nazionale, chiaramente. Si tratta all'incirca di 12 pagine, per chi ne fosse interessato lo può anche trovare in rete. Puoi riassumerci quali sono i passaggi più importanti di questa ipotesi di accordo? E chiaramente, insomma, vorremmo anche capire, sulla base di questa ipotesi, quali sono le opinioni che circolano all'interno di IKEA, se c'è, insomma, una incondizionata adesione a questa ipotesi oppure no. Ricordiamo, questo chiaramente a vantaggio di chi ci ascolta e anche per essere un po' più precisi, che comunque, ecco, a IKEA, lì a Porte di Roma, ma insomma in generale, ancora i passaggi per la costituzione, ad esempio, di un'assemblea di lavoratori e lavoratrici ancora sono in divenire, e questo, insomma, lo sottolineiamo anche per far capire anche la differenza che c'è rispetto proprio ai processi, no? di consapevolezza. All'Leroy Merlin magari stanno un pezzetto più avanti, a IKEA, insomma, appunto. Diciamo, nella nostra azienda si predilige soprattutto l'aspetto sindacale della questione, con tutto quello che comunque ne sussegue. Diciamo che questa ipotesi di accordo, che è stata siglata il 1° luglio, è un'ipotesi di accordo innanzitutto, è stata salutata da, che ne so, giornali come Il Sole 24 Ore, che sono chiaramente testate delle imprese, che è stato, diciamo, spiegato come un modello possibile per tutti, e quindi alla fine penso che non riguardi solamente la nostra azienda, ma riguardi sicuramente in futuro tutti quanti, che si basa, diciamo, su degli aspetti nuovi, come per dire questo modello di partecipazione al premio, che viene proposto in una forma alternativa a quella tradizionale, e che si basa fondamentalmente su, diciamo, la flessibilità del lavoratore, che accetta di variare i propri cambi turno, il proprio orario di lavoro, in virtù delle necessità dell'apertura del negozio, che riguarderà tutta Italia. E quindi, diciamo, che fino adesso le lotte che abbiamo messo in piedi riguardavano soprattutto l'opporsi al fatto di avere delle turnazioni selvagge tre fasce ogni settimana, mattina, pomeriggio e sera, ma adesso di fatto tutto questo verrà legittimato, diciamo, e questo conseguirà più o meno ad aggiungimento del premio di partecipazione, ossia chi accetterà di essere flessibile potrà concorrere e chi invece non lo farà verrà tagliato fuori. È bene sottolineare anche il fatto che in queste, forse ancora di più insomma in questo raggruppamento, in questo settore della grande distribuzione, i premi di produzione così come gli obiettivi vanno a formare una parte molto importante poi della busta paga, insomma, no? Sì, diciamo alla fine ammonta circa... Scusa, puoi parlare un po' più forte? Sì, come se fosse diciamo una quindicesima, si può dire. Ammonta all'incirca a uno stipendio, insomma, busta paga a fine anno. Ecco, che è il vostro stipendio così, come ordine di grandezza, tanto per farlo sapere? Diciamo in base al contratto nazionale va dai part-time 20 ore una base di 650 euro circa, con poi integrazioni varie che possono essere diciamo allungamenti orari straordinari, il che dimostra comunque che l'azienda avrebbe veramente una base di personale molto più grande di quella che realmente poi mantiene. Beh, insomma, tra l'altro, insomma, da un punto di vista generale, questa situazione relativa a premi di produzione, premi di produttività, premi di obiettivo è comune, insomma, a tante lavoratori e lavoratrici e incide poi sul quotidiano. A parte, come ribadivamo prima, si tratta, come anche lo dicevi tu, insomma, quasi di uno stipendio intero, per cui è parecchio allettante da un punto di vista individuale, ma poi pesa anche nel quotidiano, da un certo punto di vista mi sembra comunque non incida nel momento in cui si vanno a presentare ad esempio delle prove tangibili del proprio reddito, per esempio per voler usufruire di un mutuo o quant'altro, sbaglio? Guarda, innanzitutto volevo sottolineare comunque due aspetti. Il fatto che questi patiti di accordo è passata assolutamente sotto traccia per tutti, poiché comunque le organizzazioni sindacali si sono ben guardate dal informare comunque i lavoratori di quello che stava succedendo. Dopodiché hanno convocato delle assemblee per far venire a conoscenza i lavoratori di questa situazione con un anticipo di 48 ore, di modo che alla fine di fatto nessuno vi partecipasse. E secondo poi l'aspetto importante che volevo sottolineare è il fatto che dal 1 settembre in questo negozio di IKEA a Porta di Roma chiuderà il sabato e la domenica alle 10 anziché alle 8, e siccome alla fine l'azienda non ha voluto sedere ai tavoli di trattativa con i lavoratori per comunque avere un aumento diciamo delle percentuali sul lavoro diciamo in più che si verrà comunque a determinare dal 1 settembre, i lavoratori su base volontaria avevano deciso di non aderire comunque sia a questo cambio orario senza avere nulla in cambio, per cui diciamo che questo accordo integrativo che probabilmente partirà dal 1 settembre sistemerà con il fatto della sessione oraria per avere il premio di partecipazione tutta la questione comunque di chi non vorrà chiudere fino alle 10 nei giorni di sabato e domenica. E quindi diciamo in questo senso, cioè non viene riconosciuto né straordinario, l'azienda non intende ridiscutere niente? No, assolutamente no, però così vincolando il fatto di prendere il premio di partecipazione con la flessibilità oraria, molti dei lavoratori di IKEA Porta di Roma accetteranno i cambi turno senza nulla in cambio, semplicemente per arrivare a ottenere il premio. Senti, in tutto questo, per esempio, uno fa il turno fino alle 10 di sera, mangia, non mangia, avete dei rimborsi, come funziona la vostra vita quando lavorate? Perché c'è la mensa, per cui probabilmente anche questo tipo di servizi verranno estesi fino alla chiusura del negozio. Però non è detto, potrebbe anche non essere così. Senti, un'ultima cosa, prima dicevi che la stragrande maggioranza del personale impiegato è femminile, ecco, sì. Che succede per una donna? Che vuol dire maternità, famiglia? Che succede in questi casi? Vabbè, no, diciamo, vabbè, queste cose vengono riconosciute, diciamo, vorrei anche sottolineare il fatto che per far passare, diciamo, questo modello di partecipazione che non è piaciuto a nessuno dei lavoratori di IKEA è stato, diciamo, affiancato nella ipotesi di contratto contratto integrativo anche alcuni aspetti, diciamo, che possono riguardare da vicino le lavoratrici madri, ma che di fatto non ci regalano niente in più rispetto a quello che avevamo prima, ossia l'estensione della maternità, dell'aspettativa non retribuita per maternità dai 12 mesi ai 18 mesi, come se ciascuno di noi potesse permettersi comunque di restare a casa per 18 mesi senza avere uno stipendio, pur conservando il posto di lavoro. Oppure, che ne so, l'estensione della malattia del bambino fino ai 12 anni per avere 5 giorni sempre non retribuiti per la malattia del figlio. Oppure 2 giorni che devono coincidere però con la nascita del bambino al padre, che possa avere 2 giorni di permesso non retribuiti per la nascita del figlio, sempre se c'è il tempo, insomma, a dichiararlo, non è in turno. Va bene, va bene. Allora, senti, a questo punto direi che sarebbe importante capire l'assemblea dei lavoratori, lavoratrici del Juan Marlene, a che punto è, se è iniziata, se magari possiamo seguirne alcuni momenti. Sì, ho qui intanto vicino a me un lavoratore di ACE Informatica che partecipa anche lui oggi in solidarietà allo sciopero dei lavoratori. A cui passo la parola. D'accordo. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. E niente, anche oggi, come abbiamo del resto fatto a maggio scorso, siamo un bel gruppo di lavoratrici e lavoratori auto-organizzati di ACE Informatica e qui stiamo partecipando per dare supporto e solidarietà ai lavoratori dell'Leroy Merlin, che appunto stanno facendo delle rivendicazioni proprio molto elementari, insomma molto, molto semplici, che caratterizzano un po', poi in realtà si possono allargare a un po' tutto il mondo del lavoro. Quindi... Puoi parlare un po' più forte? Sì, sì, grazie. Sì, sì. E dicevo, appunto si parla di precarietà, di lavoro domenicale, di buoni pasto, di sicurezza, di violazione addirittura di accordi sindacali di secondo livello, insomma sono tutte cose che accadono ormai purtroppo quotidianamente un po' in tutto il mondo del lavoro. E niente, quindi come abbiamo fatto appunto a maggio scorso, siamo ben lieti di continuare a dare supporto e solidarietà ai lavoratori e lavoratrici di Leroy Merlin, che appunto ricordiamolo si sono costituiti in assemblea e quindi diciamo stanno portando avanti una piattaforma rivendicativa che parte proprio dal basso, insomma dai lavoratori stessi. Certo, certo. Insomma, immagino a questo punto, insomma, che di solidarietà anche da lavoratori e lavoratrici di altri settori ne sia arrivata. Insomma, questa che stiamo ascoltando in diretta è una testimonianza concreta. Esatto, noi addirittura siamo un'azienda metalmeccanica, qui loro sono del commercio, però in realtà diciamo le tematiche, le problematiche sono assolutamente comuni a tutto il mondo del lavoro. Qui tra l'altro ci troviamo al centro di un piazzale, di un grandissimo centro commerciale in cui ci sono anche altre realtà lavorative, altri lavoratori, IKEA, Auchan, eccetera. Quindi diciamo l'auspicio è quello di vedere sempre di più partecipazione appunto trasversale, perché solamente appunto unificando insomma le lotte, partecipando collettivamente tutti quanti, si riescono poi ad ottenere dei risultati che appunto se ne avvantaggia un po' tutto il mondo del lavoro. Assolutamente sì. Certo, va detto e ribadito che insomma le opportunità che possono aprirsi in un luogo come quello di cui stiamo parlando, cioè non nello specifico solo Leroy Merlin, ma tutto il complesso Porte di Roma, sono enormi, perché insomma all'incirca parliamo di forse 2000 lavoratori e lavoratrici, magari talvolta lavorano gomito a gomito, indubbiamente su di loro pesano uguali condizioni di immiserimento e anche di lavoro, tanto per dirne una, questo, diciamo, questa tendenza all'individualizzazione del rapporto di lavoro, questa tendenza riguardo alle deroghe dalle disposizioni contenute nei contratti nazionali è ormai generalizzata un po' in tutti i settori e i comparti. Ecco, magari pur vivendo gomito a gomito, sebbene magari in negozietti diversi, non si riesce talvolta a produrre neanche un minimo di dialogo. Ecco, la possibilità che si apre anche a partire semplicemente, anche a partire solo da uno dei luoghi che compongono questa multiforme insomma presenza di lavoratori in quel contesto, è sicuramente un insomma, possiamo considerarlo anche un po' un passepartout per vedere un po' se riesce a partire da questa assemblea, da queste iniziative di sciopero, a allargarsi e a ricevere consensi anche da parte di altri lavoratori e lavoratrici. Sì, assolutamente sono d'accordo, insomma c'è un bacino d'utenza qui dei lavoratori che è appunto impressionante, quindi diciamo con questi numeri si potrebbero fare tante cose per cercare di in qualche maniera disegnare un'inversione di tendenza rispetto a quei modelli diciamo padronali che ci stanno venendo come dire inculcati da svariato tempo a questa parte, e mi riferisco da ciò che è successo in Alitalia, subito a seguire alla Fiat di Pomigliano d'Arco, subito dopo alla Fiat di Mirafiori, e quindi diciamo modelli che poi caratterizzano un po' tutti quanti, e solamente se unifichiamo diciamo le lotte, se ci mettiamo insieme come lavoratori, riusciamo a ripeto a tentare di invertire insomma quello che sta succedendo. Ora qui accanto a me ho un altro lavoratore del Leroy Merlin che insomma oggi è la giornata a loro, quindi penso insomma sia la cosa insomma di ripassargli la parola. Quindi noi come lavoratrici e lavoratori di ACI informatica rinnoviamo la solidarietà ai lavoratori di Roma Merlin, insomma ci faremo trovare anche noi pronti qualora appunto la loro vertenza vada avanti. Allora, d'accordo, va bene. Allora, da quanto ho potuto capire, di fatto l'assemblea è come se si stesse svolgendo adesso. Immagino che quello che stiamo mandando per segnale radio lo stiano ascoltando anche gli altri convenuti a questo appuntamento di sciopero. Siamo in diretta sul piazzale dello sciopero. Ecco. Buongiorno a tutti e tutte. Buongiorno, buongiorno. Assemblea lavoratori e lavoratrici Leroy Merlin. Allora, in diretta sul piazzale, permettimi brevissimamente ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno dato sostegno precedentemente nella giornata di oggi. Se li snocciolo: Macchia Rossa di Magliana, ex 51 di Valle Aurelia, collettivo Lavori in Corso di Tor Vergata, lavoratrici e lavoratori ad organizzati di ACI Informatica, comitato di lotta Quadraro, collettivo Rossa Gioventù, assemblea coordinata e coordinativa contro la precarietà, centro sociale di Poddi Marino, i CUB di Auchan e il collettivo femminista delle Mandragore, più tutti quelli che mi sono dimenticato in questo momento. Questo a dire che il senso ultimo della nostra lotta è fondamentalmente sulla perdita di diritti, e quindi è un discorso che, come potete vedere da tutte quante le sigle che ho conosciuto, riguarda non soltanto i lavoratori e lavoratrici di Leroy Merlin, ma i lavoratori in generale, perché quella è la cosa che è più importante. Noi chiaramente stiamo facendo una vertenza su delle cose che sono precipi del nostro punto vendita, ma ci sono la stragrande maggioranza dei discorsi, quello sulla sicurezza del lavoro, quello sul rispetto del contratto nazionale e dell'integrativo, il fatto di giocare in anticipo su tutto quello che sta succedendo rispetto a queste cose, sono cose che riguardano tutti quanti, ed è per questo che stiamo qui sul piazzale, perché vogliamo che partecipino più persone possibile di questo indotto lavorativo di Porte di Roma, perché i problemi che ci accomunano sono gli stessi. Perché una persona normale si può domandare: voi perché scioperate, visto che avete il contratto che non è un contratto a termine nella grande maggioranza dei casi? Perché se abbassiamo la testa a noi che abbiamo un contratto a tempo indeterminato, il futuro che ci aspetta non potrà che peggiorare, peggiorare e peggiorare. Mi sembra un punto di vista, direi quasi raro di questi tempi, no? E però molto importante, proprio perché passa tra in mezzo ai lavoratori e alle lavoratrici l'idea molto spesso che se qualcuno accanto a me va a fondo, viceversa io posso salvarmi, insomma. Sì, esattamente quello, e infatti diciamo quella è la mentalità di gran parte della gente che entra a lavorare, che non vive come suo il problema perché non gli arriva direttamente come bruciatura sulla propria pelle. Però se uno la vede in maniera un minimo più collettiva, ne termini da tutta, il problema reale è proprio quello, che si stanno cercando di eliminare i diritti del lavoro piano piano, a picconate, come ci fanno vedere ad esempio i Pomigliano della Fiat. Allora noi, per non ripetere questa esperienza che ci sembra realisticamente dietro l'angolo, ci stiamo dando da fare. Senti, una domanda sulla vostra esperienza, insomma, io non so se tra voi, quando avete dato inizio a questa assemblea, queste riunioni tra lavoratori e lavoratrici, c'era fra voi già chi era, diciamo, in qualche modo, una brutta parola, sindacalizzato, o comunque già un pochino addentro alle tematiche del mondo del lavoro, o viceversa eravate tutti abbastanza digiuni. Che ha significato per voi, diciamo, scoprire questa dimensione collettiva, anche oltre che personale, di interessi comuni, e quindi della possibilità di sapere affrontare la controparte padronale, insomma? Beh, se posso fare una piccola parentesi, sennò poi me lo scordo, l'azienda ha fisso un cartello fuori dalla porta del negozio annunciando ai clienti e scusandosi per il disagio che il servizio ritiro merce e carta idea è momentaneamente sospeso, e quindi questo nel discorso dello sciopero che stiamo portando avanti oggi è già una piccola vittoria, questo nel momento stesso in cui stiamo facendo il collegamento adesso. E riprendendo invece il discorso della domanda che mi ha fatto, è stato un processo abbastanza naturale, nel senso che sia pure eravamo parecchio digiuno di sindacato, sia pure è un discorso che si è dibattuto centinaia di volte se è il caso di far entrare il sindacato o meno, in definitiva stiamo lottando senza il sindacato, e forse questo, proprio questo, non ci fa perdere l'attenzione su quelli che sono i problemi reali, senza far entrare un'altra parte nel discorso che porterebbe soltanto altra confusione, ci stiamo concentrando fortemente su quelli che sono i problemi reali, perché di problemi reali si parla, non di collusione o di giochini di poteri, non ci interessa di questa cosa. E la cosa ci fa gioco, vediamo che tanta gente anche al di fuori del mondo di lavoro di Porte di Roma è d'accordo con questo tipo di ragionamento, e quindi perché non proseguire? Certo, e soprattutto in questo modo è qualcosa che vi impegna, ci impegna tutti in prima persona, quindi senza delega, insomma. Sì. E questo mi sembra una cosa importante, no? Per tutti quanti i lavoratori e lavoratrici, insomma. Solo quello, per sfuggire al meccanismo della delega ci siamo, diciamo, presi l'impegno di metterci la faccia uno per uno. Chiaro che poi i problemi di ogni persona sono diversi, ma se ci rapportiamo con calma uno di fronte all'altro scopriamo che i problemi che ci accomunano forse sono anche di più, e allora perché sicuramente ne vale la pena di mettersi a cominciare a combattere proprio da quelli. Stiamo cercando di spingere su questo tasto in modo che, ma la situazione sembra abbastanza reosea, parta una piattaforma di tutto quanto il centro commerciale. Benissimo, chiaramente, insomma, è questo anche in virtù di quanto dicevamo prima sulle possibilità che possono aprirsi sull'intero complesso. Rimanendo invece ancora un po' sulle Leroy Merlin, prima con Valerio abbiamo accennato, ma poi un po' sopravvolato, alla questione del contratto che è stato siglato a febbraio. Di fatto, insomma, poi quel tipo di accordo è andato a intervenire sulle questioni più delicate su cui vi eravate anche spesi per la presentazione di una sorta di piattaforma avanzata intorno ad aprile, che poi insomma ha sviluppato tutto quel confronto tra di voi, quelle relazioni che ha portato allo sciopero del 6 maggio. Di fatto su carichi di lavoro, salari, salute e ritmi, che sono le questioni più importanti, vanno a essere intaccate pesantemente dal contratto. Anche gli orari stessi. Esatto, dal contratto che è stato siglato, perché insomma, a parte gli aumenti che prevede i minimi tabellari e i minimi tabellari previsti dal contratto stesso, che sono davvero irrisori, le cose più preoccupanti sono, come dicevamo prima, l'introduzione delle deroghe al contratto nazionale, poi c'è questa modificazione alla normativa sul pagamento dei primi 3 giorni di malattia. Ce la puoi raccontare tu meglio, anche per far capire come ci si muove, insomma, per destituire istituti fondamentali della contrattazione nazionale? Come ci si muove rispetto al fatto della malattia è purtroppo già cosa fatta, quindi per il momento insomma stiamo cercando di capire come muoverci, ma l'unico movimento è quello di non ammalarsi. No, però ti chiedevo proprio di spiegarci come funziona questo nuovo regime. Ah, no, funziona semplicemente che di fatto non vengono pagati i primi 3 giorni della malattia, sono arrivati a pagare diciamo il 60% del terzo evento di malattia, ma comunque dal quinto in avanti non viene più corrisposta la malattia, quindi tendenzialmente uno a fronte di orari allucinanti, poco spazio per il riposo, perché poi comunque la regolarità del riposo, diciamo, quando uno chiude la sera e riapre la mattina, non sempre è rispettata. A fronte di tutto questo ci tocca anche non stare male, e pensa a tutti quei lavoratori che stanno fuori sede, che magari non hanno un medico che conoscono da 30 anni a portata di mano, si troveranno sicuramente ancora più in difficoltà di quanto già non lo siano. È un lusso, insomma, che ci si può permettere una volta all'anno, perché mi pare che solo per la prima volta vengono pagati al 100%. Le prime due. Ah, per le prime due. Quindi 2 volte all'anno ancora ci si può ammalare. È chiaro che poi la capoccia di ciascuno di noi va a pensare: se proprio devo stare male, starò 15 giorni a casa. E questo è il meccanismo che poi si va a innescare quando si fanno delle leggi bieche come queste. Come tutte quante le modifiche che hanno fatto la legge sulla sicurezza, che vanno a ledere il lavoratore più che il comparto lavorativo, che invece dovrebbe stare più attento, così il datore di lavoro può sentirsi sollevato da tutta quella che è la sua responsabilità della sicurezza sul lavoro. Ma più di tutto il fatto che si possa andare a rendere quel contratto del commercio, e il motivo che ci ha spinto a scioperare oggi è lampante, perché di fronte a una disponibilità di domenica non data, il collega è stato messo in turno lo stesso, quindi già si comincia, prima ancora che scada l'integrativo, a ragionare come se l'integrativo non ci fosse più. Allora bisogna spezzare questa cosa subito, prima che sia troppo tardi. Senti, dal 6 di maggio a oggi, questo è il secondo sciopero, cosa avete raccolto dal punto di vista anche della partecipazione, dell'adesione, dell'aggregazione? A livello aggregativo all'interno del negozio si sono aggiunte delle persone, ne abbiamo persa qualcuna per strada, però fondamentalmente abbiamo dimostrato molta compattezza e molta coerenza rispetto a quelle che erano le idee iniziali. Ci stiamo organizzando sempre meglio, di modo che se decidiamo una cosa collettivamente, poi questa cosa viene mantenuta da tutti e tutte. E abbiamo avuto anche delle piccole vittorie con cambi di ruote di mulette che erano lisce ormai da anni, o hanno preso delle polveri speciali per pulire per terra, quando invece di quello si usava la segatura cancerogena del taglio legno. Quindi qualche piccolissimo passettino in avanti si è fatto. È vero pure che sulle grandi tematiche che stiamo cercando di discutere non si vede ancora la luce, però ma noi siamo sempre comunque dalla parte dell'essere fiduciosi. Anche perché poi è dalle piccole cose, insomma, generalmente che ci si può far forti anche di un sentimento di fiducia, che inevitabilmente, insomma, è necessario affinché poi dalle piccole cose si parta per arrivare a rivendicazioni più ampie. Una di queste, ricordo ad esempio l'altra volta ne parlammo, è forse legata anche ai buoni pasto, no? Ai buoni della mensa, anche su questo fronte sono state. In questo senso no, ancora non si è mosso proprio nulla. purtroppo ancora no, perché l'azienda si trincera dietro al fatto che quelle dovrebbero essere tutto ciò che va a toccare il nostro salario, sono decisioni da prendere a livello nazionale, cosa che noi continuiamo a sostenere che non è vero, però ancora non siamo riusciti ad uscire da questo punto. Però comunque, ripeto, come situazione è più che positiva. Poi nelle giornate tipo questa di oggi ti danno anche comunque un'iniezione di fiducia a quei clienti che ti incoraggiano a continuare, che decidono di lasciar perdere i loro acquisti per una giornata, ti raccontano le loro esperienze di 20, 30, 40 anni fa col sorriso sulle labbra, e quindi questo secondo me dà un senso anche molto piacevole a tutto quello che stiamo facendo. Certamente, certamente è così, e insomma una volta tanto si esce un po' da questi ruoli a cui si è costretti nella quotidianità, quello di cliente e quello di lavoratore soprattutto, che in quel momento, insomma, quando ci si incontra è indubbiamente quello più scomodo, anche se pure il consumatore, devo dire, persone, che... quindi si fa presto a ritornare a questa condizione. I ragazzi di Tor Vergata che sono qui in attesa di fare un intervento. D'accordo. D'accordo, grazie sempre della collaborazione. Ciao. Pronto, ciao. Pronto. Ciao, siamo qui da Tor Vergata anche noi a fianco dei lavoratori di Leroy Merlin. Non siamo qui solo per solidarietà, però perché ci sentiamo diretti interessati dello sfruttamento che le aziende riversano sui lavoratori, in quanto oltre ad essere studenti anche noi siamo e saremo lavoratori sfruttati e precari. Il sistema applicato dalle aziende è lo stesso che vediamo nell'università: minimizzare i costi del lavoro tramite stage non retribuiti e contratti di lavoratore e studente, per non parlare di ciò che ci aspetta una volta usciti dai nostri atenei. Lavori sottopagati, c'è un esercito di cervelli precari. Come sapete tutti, l'università sta andando totalmente in mano ai privati, i quali tutelano ovviamente solo i loro interessi, e le più grandi multinazionali hanno da tempo stretto patti con le facoltà, con il chiaro obiettivo di prelevare forza lavoro da impiegare poi nelle più spregevoli mansioni aziendali, come ingegneri nucleari per l'ENI, dirigenti di Finmeccanica. Quindi siamo qui per ribadire che non c'è confine tra lavoratori precari e sfruttati e studenti precari e sfruttati. La lotta deve essere una, auto-organizzata e contro il capitale. Perfetto, beh, mi sembra un passaggio fondamentale quello che, per il quale gli studenti si muovano, insomma, in solidarietà anche con questo tipo di vertenze, anche perché, insomma, diciamolo, poi ce lo possiamo anche dire, non è che esiste, per quanto ad esempio in tutto il periodo precedente, dall'autunno scorso fino a oggi, chiaramente la questione relativa alla vertenza Fiat, il piano Marchionne, ha tenuto banco. C'è stato anche un grande corteo che ha visto l'adesione molto altissima di studenti a Cassino. Bisogna dire che, insomma, non esistono soltanto poi quel tipo di vertenze, ma poi ci si deve, anzi forse sarebbe il caso di rafforzare proprio la presenza a questo tipo invece di situazioni che magari, insomma, si possono anche seguire un po' più da vicino, ci si può anche rendere interni, e senza dubbio così si facilita ancora di più la circolazione delle lotte, quantomeno su base reale a livello cittadino, per cui sicuramente la presenza studentesca, insomma, è da valutare come un elemento positivo. Sì, quello che cerchiamo di portare avanti, infatti, cerchiamo di far capire agli studenti che è inutile rimanere chiusi nello studentismo quando la disoccupazione giovanile è alle stelle. Comunque la laurea ha perso ogni valore che poteva avere in passato, e cerchiamo di portare avanti questa idea, insomma. Sì, mi sembra, insomma, che se dobbiamo parlare di quello che c'è in giro, di quello che c'è in giro, intendendo le misure che il governo ha varato così rapidamente, che sono tutti contenti, a cominciare dal Presidente della Repubblica, e si fanno i complimenti a vicenda, diciamo, dove vanno a finire queste misure, dove cadono? Cadono sulle persone che stanno lì nel piazzale, cadono su questa massa grandissima di lavoratori e lavoratrici che ne risentiranno in larghissima parte, direi quasi per la totalità, insomma, le conseguenze. Sì, ovviamente con tutta la complicità dei partiti, dei sindacati. sì, nessuna istituzione, diciamo, che si opponga. Sì, certamente, poi questo è, rimanda, insomma, al quadro generale delle istituzioni canoniche che in questo paese regolano, o, ma, insomma, regolano per modo di dire quelli che sono gli interessi diversi tra settori della società, insomma, e che quindi tutto fanno meno che cercare di non alimentare il conflitto, ma almeno riconoscerlo, almeno riconoscere i diritti di chi sta peggio, almeno riconoscere le necessità di chi tutti i giorni, poi immagino che i lavoratori del centro porte di Roma, non è che lì ci sono gli autobus, la metropolitana, il filobus o quello che sia, insomma, chi se sobbarca oltre l'orario di lavoro anche spostamenti in macchina giornalieri e massacranti sul raccordo anulare, e in tutto questo mi sembra che l'idea, una delle idee che era venuta fuori, è di mettere pure il pedaggio sul raccordo anulare, tanto per aggiungere, diciamo, sale sulle ferite, ma insomma mi sembra però che iniziative come questa possano rimettere in discussione non il contesto generale, che insomma ci vorrebbe evidentemente molto di più, ma perlomeno un'acquiescenza, un'assuefazione a prendere le botte in testa, no? A essere sempre bastonati e ogni tanto viceversa alzarla questa testa, perché insomma non solo ce n'è tutti i diritti di alzarla questa testa, tutte le necessità, ma c'è anche a volte la soddisfazione e l'orgoglio di poter realizzare, insomma, qualcosa che se i lavoratori e le lavoratrici delle Leroy Merlin, contattati dai sindacati la volta scorsa, dice vabbè, vi facciamo, faremmo, avrebbero fatto, così come ci è stato riferito, l'esposto per comportamento antisindacale dell'azienda solo se vi iscrivete al sindacato, che è, diciamo, per altri versi quello che si chiama normalmente voto di scambio. Qui non è un voto, insomma, a me sembra molto uguale. Sì, ringrazio, ci sono delle lavoratrici delle Leroy Merlin che volevano intervenire. Certo, con piacere. Ciao, grazie. Ciao. Allora, noi vogliamo denunciare la realtà del reparto casse, abbiamo difficoltà anche ad andare al bagno, spesso siamo costretti a rinunciare alle nostre pause perché si dà la priorità alle file in cassa e non si bada alle più basilari esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici. Anche quando riusciamo a farle, le pause ci capita di farle 40 minuti prima della chiusura del negozio, dopo estenuanti ore di lavoro svolte senza neanche alzare la testa dalle casse, visto che ci sono delle file interminabili di clienti. E vorremmo risolvere questa situazione che colpisce la nostra dignità di persone ancora prima che quella di lavoratori e lavoratrici. Mi sembra un diritto fondamentale, insomma, no? Le compagne lavoratrici già stanno allontanandosi. Se l'assemblea coordinata e continuata contro la precarietà interverrebbe in questa assemblea, ci siete? Ci siamo, come no? Bene, allora appunto si trattava di esprimere grande soddisfazione per questa seconda giornata di sciopero dopo quella del 6 maggio, che evidentemente dà continuità a una vertenza, la vertenza che evidentemente ha basi solide, che fa i conti con un atteggiamento di carattere coloniale delle multinazionali che qui dominano questi grossi centri commerciali. I francesi qua, Leroy Merlin, Auchan e altro, evidentemente mantengono quell'atteggiamento che ci hanno avuto in Asia e in Africa, insomma, no? Da una parte depredare una clientela piuttosto attonita, qua l'ambiente sembra quello dei Truman Show e cose, casettine di carta e comunque di plastica, e dall'altra evidentemente strozzare i lavoratori. È un mondo di celluloide. Accidenti, insomma, fa un che di dà qualche problema, insomma, allo stomaco questo tipo di situazioni. Tra l'altro i volantini, malgrado la giornata domenicale, fine luglio, eccetera, eccetera, da mezz'ora abbiamo finito tutti i volantini, quindi abbiamo dato un paio di mila. E quindi l'afflusso è notevole. qualcuno è ritornato indietro finché ci sei riusciti a parlare con il picchetto, riuscite a interloquire, ma è chiaro che insomma la larga massa comunque usufruisce della cerimonia degli artisti, insomma. Comunque dicevo, e inoltre il fatto che ci sia comunque la seconda giornata di sciopero di una compartecipazione estremamente significativa, poi vedremo se è raggiunto il 50% o meno, però appunto nel frattempo ci sono stati grossi operazioni di ricatto con convocazioni eccetera eccetera, le solite operazioni di sostituzione di personale sciopero e così via, che fra l'altro pongono una serie di questioni, insomma, no? Il famoso articolo 28 dello statuto dei lavoratori, legge 370, che appunto adesso è il suo baluardo contro la prevaricazione patronale, poi in effetti ha caratteristiche che demandano esclusivamente ai sindacati firmatari del contratto poi l'attibilità di questa situazione, il che è quantomeno problematico, è quantomeno come dire, un argomento da ricominciare a discutere, anziché avere come prospettiva quella dello statuto dei lavori, come sostiene, come auspica Sacconi o chi per esso. Quindi appunto, a parte il fatto che alcuni lavoratori che danno vita all'assemblea di Leroy Merlin sono ex licenziati Adesia e quindi elementi attivi dentro l'assemblea coordinata e continuativa, diciamo che questo esempio è veramente un esempio importante per, non solo per il settore del commercio, che è così travagliato sia la provocazione patronale permanente, quella antica e quella moderna, insomma, no? Ricordiamo che Carrefour, ad esempio, è stato il primo gruppo commerciale che ha appena acquisito GS, ha disdettato gli accordi de secondo livello, ha imposto quelle che sono state proprie imposizioni patronali, e poi ha preso tutti gli altri, insomma, no? Il fatto si discuteva prima dei premi di produzione. Ultimamente è stato firmato per IKEA un premio di produzione dipendente da circa 10 variabili, insomma, no? Che poi sostanzialmente riconducono alla disponibilità a quelle che so le aleatorie esigenze patronali, insomma, no? E, assolutamente fantasiose, insomma, che significano riduzione delle le capacità salariali dei lavoratori, insomma, dentro un quadro che continua a essere totalmente folle, che è appunto quello della riduzione del potere d'acquisto, ha preteso di mantenere in piedi appunto queste cattedrali dello scambio del commercio, riducendo permanentemente il potere d'acquisto dei lavoratori, dei pensionati, eccetera eccetera. Non si capisce, cioè il sistema deve andare avanti a frustate, insomma, no? Dico, come appunto, se nelle intenzioni de loro signori, insomma, no? Quindi è comunque il fatto che questo è uno sciopero reale, quindi non parliamo di scioperi precari virtuali, non si sa quando, questa è una vertenza che c'è, ha nomi, cognomi, gambe, cose eccetera, fa meno di organizzazioni sindacali di tutti i tipi, sconta i problemi di tutti i tipi che abbiamo detto, è una cosa da riprodurre, da alimentare, da sostenere. Bene, vedremo, diciamo, proprio perché ti sei riferito anche alla precedente esperienza, che ormai data da 5-6 anni, della Tesia, se non di più, in cui appunto verificammo tutti, insomma, no, la scarsa diciamo convergenza, no, su quella vertenza che per certi versi è stata anche simbolica, non sì, solo sì, per una cosa strepitosa è stata questa questione, ecco, appunto, no, dicevo proprio se l'augurio o l'invito che si può fare in termini dialettici è che se una volta nel caso da Tesi eravate tutti distratti, questa volta insomma dovreste essere tutti avvisati, non solo perché le notizie girano, ma proprio avvisati del fatto che se ci avete voglia ce n'è di che sostenere vertenze di questo tipo, no? Credo sul territorio romano. Sì, incidente, insomma, no, dico, questo dicevo, malgrado le contraddizioni che parlavamo prima, è abbastanza chiaro, ormai c'è l'anello dell'accordo anulare, è una fabbrica continua, insomma. È bravo, è il circuito, è evidentemente di distribuzione e di fornitura dei servizi, di occupazione di gente, di messa a profitto generale. Dopodiché, capito, la situazione qui è un posto come questo, con la follia che circola, migliaia di lavoratori, per dire, lo sciopero generale trascorso, quello del 6, non si è visto un sindacalista, insomma, no? Quindi parlo di quelli tradizionali, confederali, e resto neanche a parlarne. E c'è evidentemente un con le condizioni che sappiamo, insomma, ha parlato prima la lavoratrice IKEA, i part-time obbligatori, insomma, no, tutte queste belle storie qua, voglia, avanti al prossimo, insomma, c'è spazio per tutti, e fateci sapere, insomma, come si dice, però c'è gente che si mette in discussione, insomma, no. Certamente, noi diciamo, la radio non può che non solo aderire e sostenere, diciamo, con convinzione questo tipo di iniziative, ma proprio rimandandole via etere a chi ci ascolta, per fare in modo che, diciamo, questo tipo di vertenzialità, questo tipo di approccio a quella che è una realtà che viene sempre richiamata in termini generalisti, diciamo così, poi viceversa vive di situazioni concrete, di sfruttamenti concreti, di subordinazione reale e anche pesante, e che soltanto chi non vuol vedere, insomma, no, può pensare che diciamo sia risolvibile con appunto, insomma, no, slogan generalisti o richiami a condizioni che sono certamente vere di precarietà, ma insomma poi bisogna andare a scoprirle caso per caso, bisogna andare a vedere le carte dei lavoratori, le carte dei padroni, che cosa c'è sul tavolo, che cosa si può fare. Quindi, cose semplici, insomma, come si dice. Sì, esatto, cose semplici. E a narrare qualcosa, oltre a raccontare qualcosa, ogni tanto bisogna pure farla, e per farla prendere atto della situazione. Se nei posti di lavoro non se lo fa un cazzo d'altro senza il sindacato, allora è meglio che, è chiaro, succede quello che succede adesso, sta a casa, si sciacqua, va al mare, va dove gli pare, e non si muove paglia. Questo è il dato del fatto. Per il resto c'è il palazzo, i palazzi, quelli nazionali, quelli locali, eccetera eccetera, e appunto o si rompe questo meccanismo oppure peggiorano i rapporti di forza tra lavoratori e padroni, peggiora la situazione in generale. Certo, senti, non so lì se è... ci stanno le compagne delle mandragole che sono in attesa. D'accordo, allora okay. Aspettiamo il prossimo intervento. Sì, ciao. Ciao. Pronto? Pronto, siamo qui. Ciao. Ciao. Senti, io volevo fare un intervento a nome del collettivo Le Mandragore. Sì. Guarda, noi siamo qui praticamente oggi in solidarietà con lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Leroy Merlin, perché ovviamente crediamo, insomma, sia importante che anche in questa occasione venga sottolineato non solo che nei posti di lavoro vengono violati quotidianamente i diritti anche basilari dei lavoratori e delle lavoratrici, come ci hanno esposto i ragazzi qui dell'assemblea, soprattutto che oltre a questo, purtroppo quotidianamente le donne sono sottoposte a ulteriori ricatti e discriminazioni nelle aziende. Infatti, a differenza di quello che ci viene propinato dai media e dalle istituzioni sull'emancipazione femminile, noi crediamo che la donna continua comunque ad essere una figura subalterna all'universo maschile. Pensiamo per esempio alla retribuzione salariale, che dai dati Istat è nettamente inferiore a quella maschile, perché viene spesso decurtata in busta paga da congedi parentali, malattie bimbo e da tutto ciò che riguarda praticamente la cura della famiglia. Quindi, insomma, questo sta a significare che ancora oggi la cura della famiglia rimane a carico delle sole donne. Oppure molto spesso le donne sono soggette anche a mobbing, che può essere causato da diversi motivi. Per esempio, possiamo essere punite se andiamo sotto ispettorato prima del congedo obbligatorio di maternità, o semplicemente perché praticamente usufruiamo dello stesso congedo. O per non parlare delle ritorsioni che si possono ricevere nel momento in cui si rifiutano le avance dei vari superiori. Insomma, chiamiamole pure molestie, no? O no? Sì, sì, assolutamente, molestie a tutti gli effetti, sì, sì. E questo purtroppo, insomma, è solo un excursus, un assaggio così generale di come si muove purtroppo il sistema lavorativo e quello sociale. Perciò diciamo che, insomma, noi auspichiamo che pratiche di auto-organizzazione, di lotta nei posti di lavoro si diffondano sempre di più, ma che pongano soprattutto una costante attenzione anche alle tematiche di genere. Beh, tra l'altro, insomma, tutti gli elementi che hai messo insieme compongono un quadro che rendono chiaramente necessario il fatto che nei posti di lavoro tutto debba essere guardato anche secondo un'ottica di genere. Anche perché, insomma, se a farlo in prima persona non sono proprio le donne che le vivono sulla pelle queste problematiche in più, insomma, ci domandiamo chi debba farlo per loro. Assolutamente. Ecco, va bene. Senti, ci sta dell'altro? Ci stanno altri? Sì, cioè, guarda, c'è un altro intervento di un lavoratore di Leroy Merlin. Ok, bene. Te lo passo. Sì, va bene. Ciao. Ricordiamo intanto agli ascoltatori e ascoltatrici, sì, che siamo in collegamento con Leroy Merlin, col piazzale dove si sta svolgendo questo sciopero oggi domenica 24 luglio, che ha visto una buona partecipazione dei lavoratori di Leroy Merlin e su cui hanno dato la loro solidarietà altre associazioni e collettivi di lavoratori. Sei in onda, poi pronto. Buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. E allora, io sono un altro lavoratore, insomma, qui di Leroy Merlin Porta di Roma, e mi facevo un intervento, insomma, per denunciare fortemente un altro aspetto che noi, insomma, scusate il gioco delle parole, ma appunto denunciamo tutti i giorni sul nostro posto di lavoro, e ancora più forte oggi con questa iniziativa. In questo paese dove praticamente sicurezza sul lavoro se ne parla solo quando la gente muore, anche l'approccio della nostra azienda e di questo negozio in particolare, insomma, la sicurezza sul lavoro è assolutamente propagandistico. Poi nella realtà dei fatti, insomma, nonostante le ripetute denunce, non viene fatto nulla, anzi. Io mi vivo la logistica del suo negozio ormai da 6 anni, faccio il caporeparto qua dentro, e questo è un negozio strutturalmente molto più piccolo di altri, però di contro poi è il negozio che in assoluto gestisce più merce, insomma, di... Ecco, quindi scusa per chi ci ascolta, no? La logistica significa ricevimento, spostamento merci, quindi carichi pesanti, insomma. Esatto, la logistica in Leroy Merlin significa ricevimento merci, messa a posto, insomma, all'interno del negozio della merce che arriva, e ritiro merci per i clienti. Noi lavoriamo con dei carichi di lavoro impressionanti, ripeto, è il negozio che c'è in assoluto più carichi del lavoro rispetto anche alla merce, e con degli orari che partono da miniera quasi, che partono alle 5 di mattina, e nonostante questo, insomma, nonostante facciamo questo orario qua, nonostante facciamo i facchini a tutti gli effetti in modo molto molto pesante, ci chiedono lo stesso di fare straordinari su straordinari, poi facendo questo tipo di mestiere qua che è massacrante, proprio perché non ce la fanno neanche loro a stare dietro alla merce che gestiamo. Ma la cosa, insomma, più preoccupante da denunciare assolutamente è il fatto che il negozio strutturalmente è piccolissimo, non riusciamo in nessun modo a gestire questo volume di merce qua, e quindi siamo costretti, ripeto, un po' tutto il negozio, ma soprattutto noi che lavoriamo nella logistica, ad operare tutti i giorni in luoghi, in ambienti strettissimi, fatiscenti. Cioè abbiamo dei magazzini dove le strutture che ci stanno all'interno, la pavimentazione è fatiscente, con delle buche, insomma, e spessissimo gli operatori che stanno allo scarico merci, cioè abbiamo, proprio per gli spazi insufficienti, sono costretti a operare per strada, di fatto in una strada privata del centro commerciale, ma dove passano in continuazione a pochi centimetri dai colleghi mezzi, camion e furgoni che poi vanno allo scarico dell'Auchan o dell'Ikea o di altri posti qua dentro il centro commerciale. Sotto chiaramente le intemperie, quindi il caldo d'estate e la pioggia d'inverno. E anche qui la prima preoccupazione della direzione è quella della merce, se bagna o meno, non viene fatto nessun riferimento poi a chi sta lavorando. I mezzi sono assolutamente fatiscenti. Solo la denuncia, le denunce dell'assemblea hanno fatto sì che dopo mesi venissero cambiate le ruote del muletto, per esempio, insomma. Qui si scialappano soldi per tutti, si fanno cene per membri della direzione dai 1.000 ai 4.000 euro e poi quando è stato chiesto, insomma, dei cambierò dal muletto, ci è stato risposto che non c'erano i soldi con tutto quello che fattura il negozio. E abbiamo avuto degli infortuni, per fortuna non gravi, qualche mese fa, insomma, ce ne poteva essere uno molto, molto grave. Solo grazie, insomma, all'intervento di un ragazzo della logistica non sono caduti dei bancali da un'altezza superiore ai 2,5 metri addosso a una persona che stava costretta nella riserva a manovrare con dei mezzi elettrici che oltretutto non aveva neanche avuto la formazione, come grandissima parte della gente che sta dentro a suo negozio, insomma, usano normalmente mezzi elettrici per lo spostamento e il sollevamento delle merci e direi, insomma, un po' il 90% della gente che usa questi mezzi non è addestrata. Non è addestrato, esatto. I ritmi che ci impongono, insomma, fanno sì che la sicurezza non sia assolutamente la priorità. Qui abbiamo uscite d'emergenza ostruite dalla merce e spintori che non solo sono ostruiti ma vengono pure smontati per metterci la merce e più volte, insomma, chi ha fatto risalire queste problematiche, insomma, viene detto che la priorità sono altre, quindi, insomma, certamente. Senti, si è mai visto un ispettore del lavoro dell'ISPS, dei vigili del fuoco, eccetera? L'ispettore del lavoro qui non si è mai visto. Io, in qualità di responsabile della logistica, ma anche di RLS del negozio, ho chiesto alle risorse umane di questo negozio un incontro con il dottore del lavoro, il nostro medico del lavoro, proprio per analizzare con loro le varie problematiche, ma soprattutto denunciare le infinite, insomma, come dire, mancanze rispetto all'attuazione delle procedure di sicurezza. Cioè alla 626, dici? Sì, la ex 626, oggi decreto 81.0. Sì. E insomma, pure qui mi è stato detto che adesso non è il momento, l'ispezione, chiamiamola così, è stata rimandata, quindi, insomma, dicendoci ancora una volta che sicuramente la sicurezza non sta tra i loro primi problemi, tra i loro primi pensieri. Però, insomma, se te garantisco, per le condizioni in cui siamo noi, ogni giorno i colleghi rischiano veramente, veramente. Senti, tanto. Ma ce l'avete un rappresentante per la sicurezza cosiddetto? Sì. Guarda, io e un altro collega, insomma, siamo stati eletti RLS. La RLS è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, però, insomma, il ruolo dell'RLS, soprattutto anche in questa azienda, è marginale, nel senso, può solo limitarsi alla denuncia dei fatti. Sì, alla segnalazione di qualcosa, sì. Il collega, diciamo, l'altro collega, insomma, è molto allineato con l'azienda, quindi non ha mai denunciato nulla. Nel momento in cui ho cominciato a denunciare le cose, anche in maniera scritta, poi ho avuto anche, come dire, delle ritorsioni, delle intimidazioni, certamente, più o meno dirette dal mio superiore, che poi è quello che insieme al direttore più in assoluto deve occuparsi del problema della sicurezza all'interno del punto vendita. E solo, ripeto, insomma, abbiamo visto qualche margine di miglioramento solo dopo le denunce fatte attraverso l'assemblea dei lavoratori. Quindi qui, quando per esempio all'interno del negozio c'erano dispersioni dei liquidi, veniva usata in maniera assolutamente tranquilla la polvere del taglio legno. Noi abbiamo un taglio legno che è assolutamente cancerogeno, c'ha un livello cancerogeno altissimo, e quando denunciavamo questi fatti, insomma, ci dicevano che comunque era più importante non far vedere ai clienti che il negozio è sporco e soprattutto che noi dovevamo essere elastici da questo punto di vista, quindi ci hanno chiesto ancora di più. Certo, la pelle mica è a loro, è a vostra, certo. Esatto, quindi anche a fronte di denunce scritte, anche, insomma, con delle richieste fatte alla direzione dopo tanto tempo, però, insomma, finalmente, quindi questa noi la rivendichiamo anche come una vittoria dell'assemblea. Bene, mi sembra anche questo, insomma, no, quelle piccole cose ma significative che l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici è riuscita a portare avanti, insomma. Sì, tra l'altro mette in evidenza tutto quanto quello che stai dicendo, l'altra faccia di Leroy Merlin, l'altra faccia rispetto a quella, insomma, che invece viene presentata attraverso le operazioni e le strategie di marketing, che vorrebbe lavoratori e lavoratrici non solo sorridenti ma occupati nel loro bel lavoro che si svolge all'interno di spazi sicuramente idonei, con scaffali sempre belli, puliti e ordinati. Beh, ecco, l'altra faccia è quella, insomma, anche dei luoghi fatiscenti di cui ci stai raccontando e delle condizioni di sicurezza a cui occorre, insomma, sì, piegarsi. Assolutamente sì, noi quello che c'è dietro le quinte, insomma, dietro le quinte del negozio è assolutamente all'opposto. Uno degli striscioni che abbiamo fatto oggi recita: Leroy Merlin, la casa dei sogni, è un lavoro invece da inizio. Eh sì, anche perché loro poi sulla pubblicità, insomma, ci puntano anche abbastanza. Esatto, esatto. Beh, loro sulla pubblicità stanno investendo moltissimo, hanno fatto un ingente investimento soprattutto per la pubblicità che sta andando adesso in televisione, che credo, insomma, avrete visto in molti. Però poi a livello di sicurezza in azienda, insomma, nonostante, ripeto, gli infiniti infortuni poi che ci sono anche in altri negozi della nostra catena, molti dei quali anche gravi, nonostante le statistiche ci dicono che gli infortuni all'interno di questa insegna continuano ad esserci e sono in aumento, poi nei fatti non si nota nulla, perché poi le problematiche che abbiamo noi ce l'hanno anche altri negozi. Le nostre sono particolarmente gravi proprio perché le infrastrutture del nostro negozio, i mezzi che ci vengono messi a disposizione sono assolutamente fatiscenti. Insomma, se voi pensate che il mio responsabile ha dei preventivi sulla scrivania quantomeno per la revisione dei mezzi da mesi e mesi e neanche vengono presi in visione, insomma, questo la dice lunga. E oltretutto, insomma, quando noi della logistica, che vi ho detto col lavoro massacrante che facciamo, ci vediamo pure di, cioè, ci sentiamo pure sentire, insomma, che viene in qualche modo contestata, non chiaramente nei fatti, per fortuna, tra poco arriverà pure questo, ma almeno a voce ci vengono contestate le malattie, cioè io e i miei colleghi, insomma, chi più chi meno, tra schiene rotte e altre acciaccature varie, proprio, insomma, per far fronte a sti carichi del lavoro, veramente qui non se ne esce. Pure questo, insomma, in qualche modo ti viene contestato, ti viene puntato il dito, se poi stai a casa una settimana, perché chiaramente dopo queste situazioni qui c'hai la schiena rotta. Ecco, mi sembra che la casa dei Leroy Merlin, la casa dei sogni, un lavoro da incubo, mi sembra che riassuma perfettamente, insomma, un aspetto della giornata di oggi, della vostra lotta, della vostra vita dentro questa azienda, e speriamo che diventi veramente patrimonio di tutta la città, in modo che la gente lo sappia, insomma, che dietro queste immagini patinate ci sia questo. Oltretutto qua rischiano anche i clienti, noi abbiamo comunque delle situazioni all'interno del punto vendita dove, proprio ti dicevo, per i carichi e per i ritmi del lavoro siamo costretti a fare delle operazioni che oltretutto sarebbero anche vietate dalla legge. Però, insomma, niente, i nostri comunque responsabili ci dicono che la priorità è esporre le merci e esporle poi anche in un modo non sicuro, perché di fatto le infrastrutture non ci stanno. Quindi qui noi non denunciamo solo il rischio per i lavoratori, ma anche il rischio reale e evidente in questi casi anche per i clienti. Quindi, insomma, vorrei sottolineare come questa giornata di lotta, insomma, noi la vogliamo sottolineare, questa cosa non è solo riferita ai collaboratori ma anche ai clienti, insomma, di questo negozio qua, i quali, devo dire, da stamattina, da subito, ci hanno mostrato la loro solidarietà. Come era accaduto il 6 maggio, quando hanno visto le nostre rivendicazioni, quando hanno letto i volantini, insomma, molti clienti si sono rifiutati oggi di acquistare all'interno di questo punto vendita. Bene, ti ringraziamo. Ti ripasso i compagni. Sì, ciao. Ciao, grazie ancora. Ciao. Per lo spazio. Certo. Pronto? Pronto, siamo qui. Pronto? Sì, allora. Allora, la giornata, insomma, è stata lungamente descritta, insomma, penso che tutti gli aspetti siano stati colti. Per quello che abbiamo visto, insomma, qua davanti, dobbiamo dire che è stata una giornata sicuramente positiva, come ci avevo detto anche adesso, è stata una giornata in cui si è riusciti comunque a tirare fuori molti contenuti, a parte che questa assemblea comunque è andata in diretta sul piazzale, ma si è riusciti proprio a interloquire con moltissime persone, e che anche poi chiaramente tutti quanti poi si riconoscevano nelle difficoltà che si incontra sul mondo del lavoro, quindi ognuno mai riportava la propria esperienza e venivano riconosciute le ragioni di chi oggi scioperava. Dal punto di vista dello sciopero, insomma, la decisione magari verrà qua giustificata in seguito, però già il fatto di aver creato un disservizio, comunque un problema all'azienda come quella di aver sospeso alcuni servizi e quella anche di aver messo in turno tutti i capi settori, se mi avete capito, insomma, evidentemente quindi lo sciopero è sicuramente riuscito ed è uno sciopero che, come ti ho detto, non è isolato, ma viene insomma da un percorso e sicuramente questo percorso non finisce oggi e proseguirà, quindi la radio, ma in generale insomma, tutta la città è invitata a seguire, a continuare a dare la solidarietà proprio attiva a questo tipo di vertenza che continua e che, come stavo detto, non è circoscritta semplicemente al lavoro di Laura Merlene, ma tocca un po' tutti quanti. Rispetto a questo, quella di oggi è stata un'altra giornata sicuramente positiva. Noi continueremo a seguire la vicenda, insomma, come assemblea coordinata del Consiglio di Controllo delle Gamma, cioè tutte le realtà che oggi sono qua, insomma, sicuramente continueranno a mostrare la loro solidarietà attiva al percorso che è stato intrapreso e che sicuramente necessariamente dovrà continuare, perché non è che la situazione si risolve, e sappiamo molto più lunga. Bene, pronto? Pronto, sì. Sentiamo dei fischi che... Sì, allora, qui. Ah, ecco, dipendeva... l'amplificazione, cioè c'erano dei problemi. Bene, io non so se l'assemblea si avvia al termine, come proseguirà la mattinata lì da voi. Mi senti? Sì, allora noi faremo un altro po' qui, poi chiaramente l'assemblea volge al termine, sono stati tutti gli interventi, lo sciopero per l'intera giornata, quindi comunque proseguirà lo sciopero e l'assemblea durerà un altro po', insomma, almeno fino alla mattinata, quindi comunque potrò sentire anche gli slogan. Sì, si sentono gli slogan che vengono ripetuti. Noi vi salutiamo a questo punto, dopo questo bel lungo collegamento, e ovviamente esprimiamo la nostra solidarietà all'iniziativa, alla lotta dei lavoratori e lavoratrici di Leroy Merlin, pensando di interpretare anche il pensiero di chi ci ascolta, insomma, no? E per a conclusione, insomma, vi dedichiamo ai lavoratori e alle lavoratrici di Leroy Merlin, a questa iniziativa, a questo sciopero odierno, insomma, la canzone che adesso mettiamo in onda. Perfetto. Salutiamo tutte e tutti, ringraziamo la radio per tutto lo spazio dato questa mattinata per seguire questo sciopero, quindi sicuramente ci sentiamo presto. D'accordo. Saluto a tutti. Ciao. Ciao. Compagni avanti, gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso il fiore, il petto c'è fiorito.